Cari fratelli e sorelle, dopo il tempo delle feste ritorniamo alle nostre catechesi. Avevo meditato con voi le figure dei 12 apostoli di San Paolo, poi abbiamo cominciato a meditare altre figure della Chiesa nascente e così oggi vogliamo vedere un po' la persona di Santo Stefano, festeggiato della Chiesa il giorno dopo Natale. Santo Stefano è il più rappresentativo di un gruppo di 7 compagni. La tradizione vede in questo gruppo il cerme del futuro ministero dei diaconi, anche se bisogna rilevare che questa denominazione è assente nel libro degli Atti degli Apostoli. L'importanza di Stefano risulta in ogni caso dal fatto che Luca, in questo suo importante libro, gli dedica 2 pieni capitoli. Il racconto lucano parte dalla constatazione di una suddivisione invalsa all'interno della Chiesa primitiva di Gerusalemme. Questa era sì interamente composta da cristiani di origine ebraica, ma di questi alcuni erano originari della terra di Israele ed erano detti ebrei, mentre altri, di fede ebraica vetero-testamentaria, provenivano dalla diaspora di lingua greca ed erano detti ellenisti. Ecco il problema che si stava profilando. I più bisognosi tra questi ellenisti, specialmente le vedove sprovviste di ogni appoggio sociale, correvano il rischio di essere trascurati nell'assistenza per il sostentamento quotidiano. Per ovviare a questa difficoltà, gli apostoli riservano se stessi la preghiera e il ministero della parola come centrale compito degli apostoli e dei loro successori, e decidono di incaricare 7 uomini di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e di saggezza, perché espletassero l'incarico dell'assistenza, il servizio sociale e caritativo. A questo scopo, come scrive Luca, su invito degli apostoli, i discepoli elessero, come ci ha detto, 7 uomini. E abbiamo anche i nomi, cito secondo San Luca. Primo, Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo. Poi Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola. Li presentarono agli apostoli, i quali, così ci dice San Luca, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Questo gesto dell'imposizione delle mani può avere vari significati. Nell'Antico Testamento il gesto ha soprattutto il significato di trasmettere un incarico importante, come fece Mosè con Giosuè, così designando il suo successore. E nella stessa linea, anche la Chiesa di Antiochia utilizzerà questo gesto per inviare Paolo e Barnaba in missione ai popoli del mondo. Ad una analoga imposizione delle mani su Timoteo, per trasmettergli un incarico ufficiale, fanno riferimento le 2 lettere paoline indirizzate a San Timoteo. Che si trattasse di un'azione importante da compiere dopo discernimento si desume da quanto si legge nella prima lettera a Timoteo, dove scrive San Paolo: non aver fretta di imporre le mani ad alcuno per non farti complice dei peccati altrui. Quindi vediamo che il gesto dell'imposizione delle mani si sviluppa nella linea di un segno sacramentale. Nel caso di Stefano e compagni si tratta certamente della trasmissione ufficiale da parte degli apostoli di un incarico e insieme dell'implorazione di una grazia per poter esercitarlo. La cosa più importante da notare è che oltre ai servizi caritativi, Stefano svolge pure un compito di evangelizzazione nei confronti dei connazionali di questi cosiddetti ellenisti. San Luca infatti insiste sul fatto che Stefano, pieno di grazia e di fortezza, presenta nel nome di Gesù una nuova interpretazione di Mosè e della stessa legge di Dio. Si dimostra nella luce dell'annuncio, o diciamo rilegge l'Antico Testamento nella luce dell'annuncio e della morte e della risurrezione di Gesù. Questa rilettura dell'Antico Testamento, rilettura cristologica, provoca le reazioni di giudei che percepiscono le sue parole come una bestemmia. Per questa ragione Stefano viene condannato alla lapidazione e San Luca ci trasmette un ultimo discorso del santo, una sintesi della sua predicazione. Come Gesù aveva mostrato ai discepoli di Emmaus che tutto l'Antico Testamento parla di lui, della sua croce, della sua risurrezione, così Santo Stefano, seguendo quindi l'insegnamento di Gesù, legge tutto l'Antico Testamento in chiave cristologica, dimostra che il mistero della croce sta nel centro della storia della salvezza raccontata nell'Antico Testamento, mostra che realmente Gesù il crocifisso è risorto, è il punto di arrivo di tutta questa storia e dimostra quindi anche che il culto del Tempio è finito e che Gesù il risorto è il nuovo e vero Tempio. Proprio questo no al Tempio e al suo culto provoca la condanna di Santo Stefano, il quale in questo momento, ci dice San Luca, fissando gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra, e disse Santo Stefano, vedendo il cielo, Dio e Gesù, ecco, io contemplo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Il martirio di Stefano che segue è modellato sulla passione di Gesù stesso, in quanto egli consegna al Signore Gesù il proprio spirito e prega perché il peccato dei suoi uccisori non sia loro imputato. Il luogo del martirio di Santo Stefano a Gerusalemme è tradizionalmente collocato poco fuori della porta di Damasco, a nord, dove ora sorge appunto la chiesa di Saint-Étienne, accanto alla nota École biblique dei Domenicani. L'uccisione di Stefano, primo martire di Cristo, fu seguita da una persecuzione locale contro i discepoli di Gesù, la prima verificatasi nella storia della Chiesa. Questa persecuzione costituì l'occasione concreta che spinse il gruppo dei cristiani giudei ellenisti a sfuggire da Gerusalemme, a disperdersi. Cacciati da Gerusalemme, essi si trasformarono in missionari itineranti, quelli, dice Luca, che erano stati dispersi, andavano per il paese e diffondevano la parola di Dio. La persecuzione e la conseguente dispersione diventa missione, il Vangelo si propaga così nella Samaria, nella Fenicia e nella Siria fino alla grande città di Antiochia, dove esso fu annunciato per la prima volta anche ai pagani e dove pure risuonò per la prima volta il nome di cristiani. In particolare Luca nota che i lapidatori di Stefano deposero il loro mantello ai piedi di un giovane chiamato Saulo, lo stesso che da persecutore diventerà poi apostolo insigne del Vangelo. Ciò significa che il giovane Saulo doveva aver sentito anche la predicazione di Stefano ed essere perciò a conoscenza dei contenuti principali, e San Paolo era probabilmente tra questi che, seguendo e sentendo questo discorso, fremevano in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui. E a questo punto possiamo vedere le meraviglie della provvidenza divina. Saulo, avversario accanito della visione di Stefano, dopo il suo incontro col Cristo risorto, riprende la sua lettura cristologica dell'Antico Testamento, l'approfondisce e la completa, e così diventa l'apostolo delle genti. La legge è adempiuta così, dimostra, nella croce di Cristo, e la fede in Cristo, la comunione con l'amore di Cristo, è il vero adempimento di tutta la legge. Questo è il contenuto della predicazione di Paolo e dimostra così che il Dio di Abramo diventa il Dio di tutti i credenti in Gesù Cristo come figli di Abramo diventano partecipi delle promissioni. Nella missione di San Paolo si compie la visione di Stefano. La storia di Stefano dice quindi a noi molte cose. Come prima cosa ci insegna che non bisogna mai disgiungere l'impegno sociale della carità dall'annuncio coraggioso della fede. Era come uno dei sette soprattutto incaricato con la carità, ma non era possibile distruggere carità e annuncio, così con la carità annuncia Cristo crocifisso fino al punto di accettare anche il martirio. Questo è il primo punto che possiamo imparare dalla figura di Santo Stefano, che carità e annuncio vanno sempre insieme. Soprattutto Santo Stefano ci parla di Cristo, del Cristo crocifisso e risorto come centro della storia e della nostra vita. Possiamo comprendere che la croce rimane sempre centrale nella vita della Chiesa e anche nella nostra vita personale. Nella storia della Chiesa non mancherà mai la passione, la persecuzione, e proprio la persecuzione diventa, secondo la celebre frase di Tertulliano, fonte di missione di nuovi cristiani. Cito la celebre parola di Tertulliano: noi cristiani ci moltiplichiamo ogni volta che da voi siamo mietuti, è un seme il sangue dei cristiani. Ma anche nella nostra vita la croce, che non ci mancherà mai, diventa benedizione. E accettando la croce, sapendo che croce diventa e è benedizione, impariamo la gioia del cristianesimo anche nei momenti della difficoltà. Il valore della testimonianza è insostituibile poiché ad essa conduce il Vangelo e di essa si nutre la Chiesa. Santo Stefano ci insegni a far tesoro di questa lezione, ci insegna di amare la croce, perché la croce è la strada sulla quale Cristo arriva sempre di nuovo in mezzo di noi. Grazie.